Capitolo 169. I ritorni. Alziamo subito le vele, disse Menelao, finché il vento è secondo. No, no, replicò Agamennone, sacrifichiamo prima ad Atena. Noi greci non dobbiamo nulla ad Atena, incalzò Menelao. Troppo a lungo essa ha difeso la cittadella di Troia. I due fratelli si separarono bruscamente, irosi e corrucciati, e non si rividero mai più. Poiché mentre Agamennone, Diomede e Nestore poterono rientrare in patria dopo un breve e felice viaggio, Menelao incappò in una tempesta scatenata da Atena e perdette tutta la sua flotta salvo 5 vascelli che furono spinti da prima a Creta, poi in Egitto, dove il re trascorse 8 anni senza poter salpare per la Grecia. Si recò a Cipro, in Fenicia, in Etiopia e in Libia, bene accolto dai principi di quelle regioni che lo colmarono di doni ospitali. Giunse infine a Faro, dove la ninfa Idotea gli consigliò di impadronirsi del suo profetico padre Proteo, il dio del mare. Soltanto Proteo, infatti, poteva dirgli che cosa dovesse fare per rompere l'avverso incanto e assicurare alle sue navi un buon vento del sud. Menelao e 3 compagni dunque si celarono in puzzolenti pelli di foca e giacquero in attesa sulla spiaggia finché, verso mezzogiorno, furono attorniati da centinaia di foche l'intera mandria di Proteo. Proteo stesso apparve e si addormentò tra le sue bestie. Subito Menelao e i suoi compagni si impadronirono di lui, e benché il dio si trasformasse via via in leone, serpente, pantera, cinghiale, acqua corrente, albero, fronzuto, lo tennero ben saldo e lo costrinsero a profetizzare. Proteo annunciò che Agamennone era stato ucciso e che Menelao doveva recarsi un'ultima volta in Egitto e propiziarsi gli dei con ecatombi. Menelao obbedì agli ordini di Proteo e non appena ebbe innalzato un cenotafio ad Agamennone presso il fiume d'Egitto, i venti spirarono finalmente favorevoli. Egli giunse a Sparta accompagnato da Elena il giorno stesso in cui Oreste vendicava la morte di Agamennone. Molti vascelli, sui quali tuttavia non si trovavano capitani famosi, naufragarono sulle coste dell'Eubea, poiché Nauplio aveva indotto il guardiano di un faro sul monte Cafareo ad attirare i suoi nemici nelle secche anziché nelle placide acque del golfo di Pagase. Ma Zeus volle punire questo crimine e, attirato dalla luce di un falso faro, Nauplio andò incontro alla morte molti anni dopo. Anfiloco, Calcante, Podalirio e pochi altri raggiunsero Colofone via terra e colà Calcante morì, come era stato profetizzato, incontrando un veggente più saggio di lui, niente di meno che Mopso, figlio di Apollo e di Manto, figlia di Tiresia. A Colofone vi era un fico selvatico coperto di frutti e Calcante, sperando di mettere Mopso in imbarazzo, lo sfidò chiedendogli: «Sapresti dirmi esattamente, caro collega, quanti fichi saranno raccolti da quest'albero?» Mopso, chiudendo gli occhi come chi si fida più delle proprie capacità interiori che di un calcolo volgare, rispose: «Certamente, da prima 10.000 fichi, poi uno staio e gineta di fichi accuratamente pesati, e infine rimarrà un fico solo sui rami». Calcante rise ironicamente all'idea di quest'ultimo fico, ma quando l'albero fu spogliato dai suoi frutti, la predizione di Mopso si rivelò esattissima. «Per scendere da 10.000 frutti a quantità minori», chiese a sua volta Mopso, «quanti lattonzoli, secondo te, si celano nel ventre di quella scrofa gravida? E quanti di ciascun sesso verranno alla luce quando?» 8 lattonzoli e tutti maschi, e la scrofa partorirà tra 8 giorni», rispose Calcante a caso, sperando di poter ripartire prima che la sua predizione si scoprisse falsa. «Sono di parere diverso», replicò Mopso, chiudendo da capo gli occhi. «Secondo me nasceranno 3 lattonzoli, di cui uno solo maschio, domattina a mezzogiorno, non un minuto prima, non un minuto dopo». Mopso ebbe ragione ancora una volta e Calcante morì di crepacuore. I suoi compagni lo seppellirono a nozio. Il pavido Podalirio, anziché chiedere ai suoi profetici amici dove avrebbe dovuto stabilirsi, preferì consultare la Pizia Delfica, che gli consigliò con tono irritato di rifugiarsi là dove non avrebbe mai avuto guai, nemmeno se il cielo fosse crollato. Dopo molto riflettere, Podalirio scelse una località in Caria chiamata Sirno, tutta circondata da montagne le cui vette, egli sperava, avrebbero sorretto i frammenti dell'azzurro firmamento se mai Atlante se lo fosse lasciato cadere dalle spalle. Gli Italici eressero a Podalirio un santuario eroico sul Monte Drio, nella Daunia, e in esso ora l'ombra di Calcante manda sogni profetici. Sorse una disputa tra Mopso e Anfiloco. Essi avevano fondato assieme la città di Mallo in Cilicia, e quando Anfiloco si ritirò nella sua città natale di Argo Anfilochia, Mopso divenne l'unico sovrano. Anfiloco, malcontento del suo soggiorno in Argo, ritornò a Mallo dopo 12 mesi, certo di poter riassumere i poteri, ma Mopso gli intimò bruscamente di andarsene. Quando i Malli, imbarazzati e sgomenti, proposero di risolvere la vertenza con un duello, i rivali si affrontarono selvaggiamente e morirono tutti e due per le ferite riportate. I roghi funebri furono disposti in modo che Mopso e Anfiloco non potessero scambiarsi disdicevoli insulti durante la cremazione, ma in modo inspiegabile le loro ombre si legarono di profonda amicizia e istituirono un oracolo in comune. Tale oracolo ha ora fama di essere più veridico di quello di Delfi. Tutte le domande vengono scritte su tavolette di cera e le risposte giungono in sogno per il prezzo davvero bassissimo di 2 monetine di rame e luna. Neottolemo salpò da Troia non appena ebbe offerto sacrifici agli dei all'ombra del padre suo e riuscì a sfuggire alla terribile tempesta che colpì Menelao e Idomeneo, seguendo il profetico consiglio del suo amico Eleno e facendo scalo in Molossia. Dopo aver ucciso re Fenice e maritata la propria madre a Eleno, che divenne re dei Molassi, Neottolemo fondò una nuova capitale e infine raggiunse Iolco. Colà egli succedette sul trono a suo nonno Peleo, che era stato scacciato dai figli di Acasto, ma sempre per consiglio di Eleno non indugiò a oziare in patria. Bruciò le sue navi e marciò nell'entroterra finché raggiunse il lago Pambrotide in Epiro, presso l'oracolo di Dodona, dove fu accolto con molti onori da un gruppo di suoi lontani parenti. Mentre bivaccavano a riparo di tende sorrette da lance con la punta conficcata nel suolo, Neottolemo rammentò le parole di Eleno. «Quando ti troverai in una casa con le fondamenta di ferro, le pareti di legno e il tetto di lana, fermati, sacrifica agli dèi e fonda una città». Così fece Neottolemo e in Epiro ebbe altri 2 figli da Andromaca, Pielo e Pergamo. La sua fine tuttavia fu ingloriosa. Recatosi a Delfi chiese soddisfazione per la morte del padre suo Achille che, a quanto si diceva, Apollo aveva ucciso con una freccia nel proprio tempio a Troia. Quando la Pizia gli rifiutò freddamente tale soddisfazione, Neottolemo furibondo diede fuoco al tempio. Poi si recò a Sparta, sempre più corrucciato, per chiedere la mano di Ermione, promessagli da Menelao a Troia, ma che il nonno Tindario aveva invece maritata a Oreste, figlio di Agamennone. Poiché Oreste in quel periodo era inseguito dalle Erinni e colpito dalla divina maledizione, a Neottolemo pareva più che giusto che Ermione divenisse sua moglie. Nonostante le proteste di Oreste, gli Spartani accolsero la sua richiesta e il matrimonio ebbe luogo a Sparta. Ma Ermione si rivelò sterile. Neottolemo allora ritornò a Delfi e, entrato nel santuario annerito dal fumo dell'incendio, chiese di nuovo spiegazioni all'oracolo. Gli fu ordinato di offrire vittime propiziatorie al dio e, mentre così faceva, si imbatté in Oreste ai piedi dell'altare. Oreste l'avrebbe ucciso all'istante se Apollo non fosse intervenuto, ben sapendo che Neottolemo doveva morire quel medesimo giorno, ma per mano di un'altra persona. Ora, per antica usanza, le carni delle vittime sacrificate a Delfi venivano consumate dai servi del tempio. Neottolemo, che non conosceva questo particolare, non poté tollerare di vedersi portar via di sotto agli occhi quei bei quarti di bue grasso e tentò di impedirlo con la forza. «Liberiamoci da questo litigioso figlio di Achille!» ordinò la Pizia seccamente. A che un certo Machereo, un focese, abbatté Neottolemo con il suo coltello sacrificale. «Seppellitelo sotto la soglia del nuovo tempio», disse la Pizia. «Egli era un famoso guerriero e la sua ombra ci proteggerà dagli attacchi nemici. Se poi egli si pentì sinceramente dell'insulto fatto ad Apollo, lasciate che presieda alle processioni e ai sacrifici in onore di eroi come lui. Ma altri dicono che fu Oreste a istigare Machereo al delitto. L'ateniese Demofoonte approdò in Tracia durante il suo viaggio di ritorno e colà Fillide, una principessa bisaltica, si innamorò di lui. Demofoonte la sposò e divenne re. Quando fu stanco di vivere in Tracia e decise di riprendere il viaggio, Fillide non poté fare nulla per trattenerlo. «Debbo recarmi ad Atene a riabbracciare mia madre», disse Demofoonte. «Avresti dovuto pensarci prima di salire sul mio trono», disse Fillide in lacrime. «La legge non permette che tu ti allontani per più di qualche mese». Demofoonte giurò su tutti gli dei dell'Olimpo che sarebbe tornato di lì a un anno, ma Fillide sapeva che era una menzogna. Lo accompagnò al porto di Enneodo e gli diede un cofanetto. «Questo cofanetto contiene un amuleto», disse. «Aprilo soltanto quando avrai perso ogni speranza di ritornare da me». Demofoonte non aveva affatto intenzione di recarsi ad Atene. Egli infatti dirottò sud-est verso Cipro, dove si stabilì. E quando l'anno fu trascorso, Fillide lo maledì in nome di Rea, bevve del veleno e morì. In quella stessa ora Demofoonte fu preso dalla curiosità di vedere che cosa mai contenesse il cofanetto e il magico amuleto, nessuno ne conosce la natura, lo fece divenire lunatico. Egli inforcò il cavallo e si lanciò al galoppo, percuotendosi la testa col piatto della spada finché incespicò e cadde. La spada si conficcò nel terreno con la punta all'insù e Demofoonte ne fu trafitto mentre precipitava. Un altro racconto parla di una seconda principessa tracia chiamata Fillide che si innamorò del fratello di Demofoonte, Acamante, e poiché Acamante fu trattenuto nella Troade dai venti contrari, si impiccò per il dolore, trasformandosi poi in albero di mandorlo. Codeste due principesse furono spesso confuse l'una con l'altra. Diomede, come Agamennone e altri re, fu messo a dura prova dall'ira di Afrodite. Dapprima naufragò sulle coste Licee, dove re Lico l'avrebbe sacrificato ad Ares se la principessa Calliroe non l'avesse fatto fuggire. Poi, raggiunta Argo, scoprì che sua moglie Egialea era stata indotta da Nauplio a vivere in adulterio con Comete o, secondo altri, con Ippolito. Ritiratosi a Corinto, venne a sapere che suo nonno Eneo invocava aiuto contro certi ribelli. Fece dunque vela per l'Etolia e restituì a Eneo il suo trono. Ma altri dicono che Diomede era stato costretto a lasciare Argo molto tempo prima della guerra di Troia, appena tornato con gli Epigoni dalla vittoriosa guerra tebana, e che Agamennone l'aveva aiutato a riconquistare il suo regno. Egli trascorse gli ultimi anni della sua vita nella Daunia, in Italia, dove sposò Evippa, figlia di re Dauno, e costruì molte famose città, tra le quali Brindisi. Forse per questo, spinto dalla gelosia, Dauno lo uccise quando Diomede era ormai vecchio e lo seppellì in una delle isole che ora si chiamano di Diomede. Secondo un'altra versione, tuttavia, egli sparì all'improvviso per opera di magia e i suoi compagni si trasformarono in virtuosi uccelletti che ancora oggi albergano in quelle isole. La dorata armatura di Diomede è custodita dai sacerdoti di Atena a Luceria, in Apulia, ed egli è venerato come un dio nel Veneto e in tutta l'Italia meridionale. Nauplio aveva indotto all'adulterio anche Meda, moglie di Idomeneo. Essa si prese Leuco come amante, ma costui un giorno trascinò Meda e la figlia di lei, Clisitira, fuori del palazzo e le uccise nel tempio dove si erano rifugiate. Leuco indusse poi 10 città a rompere il patto d'alleanza col sovrano legittimo e usurpò il trono. Colto da una tempesta al largo di Creta, Idomeneo fece voto di offrire a Posidone la prima persona che avesse incontrata. Secondo taluni questa persona fu suo figlio, secondo altri una delle sue figlie. Idomeneo stava per compiere il sacrificio quando una pestilenza si abbatté sulla regione e interruppe la cerimonia. Leuco aveva ormai una buona scusa per bandire Idomeneo, che emigrò nella penisola salentina e colà visse i suoi ultimi anni. Pochi degli altri greci riuscirono a giungere in patria, e anche quei pochi trovarono guai ad attenderli. Filottete fu scacciato dai ribelli che si erano impadroniti della sua città di Melibea, in Tessaglia, e si rifugiò nell'Italia meridionale, dove fondò Petelia e Crimissa presso Crotone e inviò alcuni dei suoi compagni ad aiutare Egesta, che stava fortificando Segesta in Sicilia. Dedicò il suo arco a Crimissa nel santuario di Apollo Frenetico e quando morì fu sepolto presso il fiume Sibari. Venti contrari costrinsero Guneo ad approdare alla foce del fiume Cinipe in Libia e colà egli si stabilì. Filippo con i suoi coi si recò dapprima ad Andro e poi a Cipro, dove si era stabilito anche Agapenore. Menesteo non salì più sul suo trono ad Atene, ma accettò invece il trono vacante di Melo. Altri dicono tuttavia che egli morì a Troia. I compagni di Elpenore naufragarono sulle coste dell'Epiro e occuparono Apollonia. I compagni di Protesilao naufragarono nel Chersoneso Tracio e i rodi di Tlepolemo naufragarono su una delle isole iberiche, donde parte di loro ritornarono in Italia e furono aiutati da Filottete nella guerra contro i barbari lucani. La storia delle peregrinazioni di Odisseo è cantata dai versi omerici e diletta agli ascoltatori per 24 notti consecutive. Soltanto Nestore, che si era sempre dimostrato giusto, prudente, generoso, cortese e rispettoso degli dei, ritornò sano e salvo a Pilo, dove visse sino a tarda età, in pace serena, circondato dai suoi robusti e intelligenti figlioli, poiché così volle l'onnipotente Zeus. Secondo i mitografi, Afrodite combatté contro i greci perché, in qualità di dea dell'amore, aveva favorito Paride nel ratto di Elena. Ma essa era anche la dea del mare che i troiani invocarono affinché distruggesse la confederazione commerciale patrocinata da Posidone, e dunque le tempeste che ostacolarono il ritorno in patria degli eroi greci e vengono di solito attribuite ad Atena e a Posidone, debbono invece ritenersi opera di Afrodite. Tale divina vendetta diede modo a molte grandi città in Italia, in Libia, Cipro e altrove di proclamarsi fondate da eroi naufragati lungo la via del ritorno da Troia, anziché da profughi fuggiti dalla Grecia per evitare i dori invasori. Seppellire un giovane guerriero sotto la soglia del tempio era usanza assai diffusa, e poiché Neottolemo aveva incendiato il vecchio santuario di Delfi, la Pizia logicamente lo elesse quale vittima quando un nuovo edificio sorse sulle rovine del primo. I precedenti custoai della soglia erano stati Agamede e Trofonio. Rea, che consacrò il misterioso oggetto contenuto nel cofanetto di Demofonte, veniva chiamata anche Pandora, e può darsi dunque che questo mito fosse una versione più antica del mito di Pandora, moglie di Epimeteo, che aprì il vaso di tutti i mali. Un ammonimento agli uomini che vogliono impicciarsi dei segreti delle donne, anziché il contrario. Mopso era un titolo regale in Cilicia, nell'VIII secolo avanti Cristo. I compagni di Diomede si trasformarono in uccelli, che vengono descritti come virtuosi, evidentemente per distinguerli dai loro crudeli vicini, gli uccelli sirene. Meandro, colui che cerca un uomo, fece un voto simile a quello di Idomeneo quando promise di sacrificare alla regina del cielo la prima persona che si congratulasse con lui per la conquista di Pessinunte. Quella persona fu suo figlio Archelao, capo del popolo. Meandro lo uccise e poi, tormentato dai rimorsi, si gettò nel fiume. Una versione più familiare di questo mito si trova nel libro dei Giudici, 11:30 e seguenti, dove si legge che Jefte promise di bruciare in sacrificio a Geova la propria figlia se fosse ritornato vittorioso dalla guerra. Tali varianti ci fanno supporre che Idomeneo promettesse di sacrificare un uomo ad Afrodite anziché a Posidone. Meandro fece indubbiamente lo stesso voto alla regina del cielo e Jefte lo fece ad Anata, che pretendeva sacrifici umani sulla vetta delle montagne della Giudea a lei sacre. Pare insomma che sacrificare un principe di sangue reale in segno di gratitudine per una vittoria fosse un'usanza molto diffusa. Jonathan sarebbe stato sgozzato da suo padre, re Saul, dopo la vittoria di Michmash, se il popolo non avesse protestato. Finché la brusca interruzione del sacrificio di Idomeneo, di Abramo sul monte Moria e di Atamante sul monte Lafisto non fu segno manifesto che questa cerimonia non era più gradita agli dei. Il fatto che una principessa si sostituisse a un principe, come accade nella storia di Jefte o nella versione che il primo mitografo vaticano ci dà a proposito del voto di Idomeneo, è indice della reazione antimatriarcale caratteristica di questa saga eroica. Le peregrinazioni di Menelao nel Mediterraneo meridionale si riferiscono alle scorrerie dei pirati achei e a vari tentativi di colonizzazione. Secondo Xanto, un antico storico lidio, la città fenicia di Ascalone fu fondata da Ascalo, incolto, fratello di Pelope e dunque avo collaterale di Menelao. Inoltre, quando Giosuè conquistò Canaan nel XIII secolo a.C., gli uomini di Gedeone, Agabon in una versione dei 70, nome che significa Astua Caivon, la città degli Achei, si presentarono a Giosuè come supplici all'uso greco, dicendo di non essere cananei ma iviti, vale a dire Achei, giunti dal di là del mare. Giosuè riconobbe a essi come stranieri i diritti di frequentare i sacri boschi e di attingere l'acqua sacra. Dal versetto 9 risulterebbe che gli Achei rammentarono a Giosuè l'antica lega marinara dei Keftiu presieduta da Minosse di Cnos, cui erano appartenuti un tempo sia gli Achei sia il popolo di Abramo. Abramo, che era giunto nel delta con il re Ixos, aveva maritato sua sorella Sara al faraone, cioè al governatore Cnossio di Faro, allora punto nevralgico degli scambi tra gli stati della confederazione. Al tempo di Menelao Cnosso era ormai un ammasso di rovine. I confederati si erano trasformati in pirati ed erano stati sconfitti dagli egiziani nella battaglia di Piari, 1229 a.C. Li braccai come selvaggina, li spinsi nelle acque basse della riva, le loro navi e i loro beni andarono perduti in mare. Faro, non più porto di importanza vitale nel mondo antico, divenne il rifugio delle foche. Un maremoto aveva sfasciato le sue attrezzature portuali e all'inizio dell'epoca classica le flotte mercantili facevano scalo a Naucrati, lo scalo milesio. La lotta di Menelao con Proteo è una versione modificata di un mito familiare. La dea foca Teti è mascolinizzata in Proteo e Menelao, invece di attendere che la dea si liberi della pelle d'animale per poi serrarla nell'amplesso, come fece Peleo, si serve di una pelle di foca come di un travestimento, chiama in aiuto tre compagni e si limita a chiedere al suo divino prigioniero un semplice oracolo. Proteo cerca di sfuggire con una rapida serie di metamorfosi, così come Teti fece con Peleo o come fece Dioniso Zagreo, che è associato con Faro quando i titani lo minacciarono. La lista omerica di codeste metamorfosi è piuttosto ingarbugliata. Due o tre sequenze a carattere stagionale sono state fuse l'una nell'altra. Il leone e il cinghiale sono, è chiaro, gli emblemi dell'anno a due stagioni, e così il toro, il serpente marino e il leone sono l'emblema dell'anno a tre stagioni. La pantera è sacra a Dioniso e l'albero fronzuto, che ha un parallelo nella leggenda di Periclimena, si ricollega forse ai sacri alberi dei mesi. Le metamorfosi di Proteo sono molto divertenti da un punto di vista letterario e poetico, ma del tutto inappropriate da un punto di vista mitologico, a meno che la leggenda non suonasse in origine così. Dopo un regno di 8 anni e l'annuale uccisione dell'Interrex all'uso cretese, Menelao divenne l'eroe oracolare di una colonia fondata sulle rive del fiume d'Egitto.